Incontri di Gianfranco Fabi. Con il valzer dell'imperatore di Strauss entriamo un po' in un clima natalizio, un clima di nuovo anno, un clima di feste. Grazie a quanti ci ascoltano e grazie ad Elvio Bonollo che è qui con noi questa sera. Buonasera. Elvio Bonollo è rappresentante della quarta generazione della Bonollo, che è un'azienda, la distilleria Bonollo Umberto, produttrice di grappa, ed è anche presidente dell'Istituto Nazionale della Grappa. Parleremo di grappa, allora è anche l'ora di prendere un po' un digestivo la domenica sera, quindi parliamo però innanzitutto perché il valzer dell'imperatore, questa musica così un po' affascinante, come mai le piace? Mi piace molto perché credo che riesca a riflettere quella che è la vivacità, l'armonia e l'equilibrio, ma anche l'intensità proprio della nostra grappa Hoff Amarone Barrique, che è la nostra imperatrice. Ecco, facciamo anche un minimo di pubblicità, cosa che si può fare, indubbiamente. Parliamo di una grappa, parliamo di una delle più antiche fabbriche, si può chiamare fabbrica, no? Forse produttrici di grappa, perché la grappa è qualcosa che si crea anche in un certo senso. Come nasce la grappa? Beh, la grappa è un'opera d'arte sostanzialmente, anche ai tempi di oggi, perché comunque nonostante l'evoluzione conserviamo sempre intatta quella che è la passione e quella che è la volontà di creare un distillato diverso da tutti gli altri, con particolare vivacità a livello di carattere, come dicevo prima. E questa viene proprio dal fatto che è un'abilità tutta italiana il fatto di riuscire ad estrarre da questa materia solida, parliamo di vinaccia, quindi parliamo di bucce, di semi d'uva, dopo che si è ottenuto il vino, una materia povera di alcol, ma ricca di aromi, perché la vite durante il corso vegetativo concentra prevalentemente sulla buccia quella che è la componente aromatica, e l'abilità del maestro distillatore sta proprio nel riuscire ad estrarre attraverso il contatto diretto della buccia con il vapore questa ricchezza, questa vivacità che poi deve essere ricomposta per creare la grappa. Ecco, un prodotto tipicamente italiano, non esiste all'estero qualche prodotto simile alla grappa? No, diciamo, è un distillato che ha una personalità unica, proprio perché a livello di vivacità e di ampiezza di aromi non ci sono rivali dal punto di vista del potenziale. Sì. Mi scusi la domanda da profano, ma la differenza proprio di lavorazione tra la grappa e il whisky qual è? Beh, la grappa parte dalla materia prima solida, parte dalla vinaccia fermentata, e quindi da questo punto di vista noi non abbiamo nessuna necessità di andare a creare una fermentazione, quindi abbiamo già un prodotto che è pronto. Naturalmente deve essere portato in distilleria fresco, quindi la cosa fondamentale è proprio che si riesca a conservare quella che è la vivacità e la varietà di aromi nel momento in cui il prodotto, quindi la vinaccia, entra nell'alambicco. Non è che dobbiamo creare nulla, abbiamo già qualcosa che, se è in condizioni di freschezza, come diceva lei prima, può dare una vivacità e un carattere molto molto particolare. Ma poi può entrare anche il successivo invecchiamento, lei accennava appunto a un vostro prodotto che è un prodotto invecchiato con delle metodologie, per non dire tecnologie, che sono simili a quelli del vino in fondo. Sì, beh, sicuramente la grappa ha come caratteristica, e parliamo in questo caso di grappa di Amarone, quindi un carattere estremamente vivace, ha come caratteristica di avere già un profilo molto intenso e ricco. Il contatto con il legno, quindi la maturazione in legno, nel nostro caso in barrique di rovere francese, consente di creare un'ulteriore morbidezza, quindi conferisce morbidezza che viene dalla componente tannica e quindi quei sentori un po' speziati formati un po' vanigliati che contribuiscono a dare suadenza al prodotto, ma il carattere deve uscire dalla distilleria, quindi deve uscire dall'alambicco. Ecco, cos'è cambiato nella produzione della grappa rispetto a 20 o 50 anni fa? Cos'è cambiato negli ultimi tempi? Ha portato qualcosa la tecnologia, le nuove tecnologie? Beh, sicuramente, se io penso alla grappa che faceva mio nonno, per quanto avesse grosse capacità innovative, il prodotto di oggi conserva solamente la vivacità del carattere rispetto a quello, diciamo, d'un tempo, e questo è il risultato che è frutto di grossi investimenti in ricerca. Nel caso nostro, della nostra azienda, abbiamo fatto grossi sforzi per riuscire a lavorare in primis sulla materia prima ed assicurare le condizioni di massima freschezza, perché appunto il potenziale aromatico, nel momento in cui si entra in alambicco, dove poi è compito del maestro distillatore fare quello che dicevo io prima, è il miracolo nello scolpire proprio questo profilo aromatico, ma il punto di partenza, dicevo, è proprio la freschezza della materia prima e quindi il fatto che arrivi integra a livello di potenziale aromatico all'interno dell'alambicco. Noi abbiamo sviluppato da questo punto di vista una metodologia esclusiva che abbiamo codificato come sistema unico Bonollo, dove l'obiettivo è il prodotto, quindi la grappa che vogliamo ottenere. E dietro a questo ovviamente c'è il consumatore e le sue esigenze che sono opportunamente valutate. La caratteristica fondamentale è quella di riuscire, dopo ovviamente la condizione dell'integrità del potenziale aromatico, se no non si fa nulla, a riuscire a gestire in modo flessibile gli alambicchi. E quindi mi aggancio al discorso della tecnologia. L'alambicco migliore dipende dalla tipologia di grappa che si vuole ottenere, e nella nostra filosofia produttiva questo è un imperativo: riuscire ad essere flessibili, riuscire a scegliere la soluzione migliore e, una volta scelta, proseguire nell'attività che consente la separazione di quelle che sono le teste dalle code per ottenere quello che viene definito cuore e che è la grappa. E questo, diciamo, è il fulcro di tutto. Certo, adesso in distilleria, dove è comunque il maestro distillatore ed è comunque uno di famiglia perché custode di segreti che vengono da generazioni, è comunque un maestro distillatore moderno perché è supportato da tutta la tecnologia, ha un sistema di controllo computerizzato che gli consente di conoscere tutto quello che c'è e sta avvenendo a livello di temperature, pressioni, vapore, tutte queste variabili. La tecnologia aiuta a tenere sotto controllo tutte queste variabili e a garantire anche una stabilità della produzione, una garanzia di qualità della produzione. Questo senza dubbio, però la grappa, proprio come i tempi dei tempi, è comunque un risultato che dipende dall'opera del maestro distillatore, perché partiamo da una materia prima che è variabile. Ecco, in questo senso la grappa ha un'immagine un po', diciamo così, un po' antica, un po' legata un po' agli anziani. Come si fa a mantenere di moda un prodotto come questo in un'epoca moderna in cui le novità si susseguono? Ma con tanto lavoro, tanta creatività e, per quel che riguarda la nostra azienda, con la volontà di cercare di proporre al consumatore moderno delle esperienze sensoriali. Il consumatore moderno vuole l'elemento che lega alla tradizione. Quindi nel nostro caso tutta la off è legata alla tradizione, ma vuole anche un prodotto che sia, oltre che vivace, gentile, raffinato, franco, quindi quelli che sono gli elementi necessari per rispondere sia al consumatore nazionale che internazionale. I mercati sono sempre difficili, come va il mercato in questo momento? C'è certamente qualche difficoltà generale, siamo in un momento di riflessione, siamo in un momento di ripresa? Il mercato già da anni dimostra una tendenza che va nella direzione del consumo che vogliamo per la grappa, che è un consumo moderato e soprattutto consapevole, perché è una valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche. Quindi da questo punto di vista la grappa ha molto da offrire, e quindi anche se i volumi possono tendere a una situazione di contrazione, da un punto di vista qualitativo sicuramente il prodotto continua ad attrarre attenzione e ad essere un punto di riferimento nelle scelte del consumatore. Ecco, proprio su queste scelte del consumatore, su cosa fa anche l'Istituto Nazionale della Grappa per difendere appunto l'immagine, per promuovere questa immagine, parleremo nella seconda parte del nostro programma con Elvio Bonollo, che già ora ringraziamo, ma ringraziamo anche quanti ci ascoltano e diamo lo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Thank you. Ancora con le note del valzer dell'imperatore di Strauss, riprendiamo il nostro incontro con Elvio Bonollo, rappresentante della quarta generazione della famiglia Bonollo, produttrice di grappa e presidente dell'Istituto Nazionale della Grappa. Abbiamo parlato nella prima parte di questo prodotto, un prodotto tipico italiano, un prodotto storico italiano, che però anche questo prodotto appunto ha una continua evoluzione, un continuo perfezionamento della qualità. È un prodotto che deve rispettare anche dei parametri, è un prodotto che ha una qualifica appunto documentata e programmata e definita, come si chiama questa qualifica di qualità in sede europea? Sì, è un'indicazione geografica. Indicazione geografica. Quindi ha un protocollo che deve rispettare. Quali sono i requisiti per entrare ad essere definiti grappa e poi per far parte dell'Istituto Nazionale della Grappa? Diciamo che i requisiti per qualificare un prodotto come grappa è quello di essere un acquavite di vinaccia, ma non un acquavite di vinaccia qualsiasi che può fare chiunque, ma un acquavite di vinaccia ottenuta a partire dalla distillazione appunto di vinacce che sono frutto di uve coltivate nel territorio italiano e che sono state vinificate in Italia. E quindi questo è un elemento fondamentale per poter poi, attraverso una distillazione diretta, perché ci vuole il contatto tra la buccia e il vapore, ottenere poi quella che viene definita grappa. Siamo sottoposti ai controlli delle autorità doganali e ogni produzione di grappa, nel momento in cui viene completata, è sottoposta proprio a un'analisi da parte di laboratori doganali. Ecco, quindi è un'industria abbastanza diffusa, sono abbastanza numerosi i produttori di grappa in Italia. Esiste ancora anche una qualche famiglia che se la fa in proprio, magari in cantina, perché poi ci vogliono anche dei requisiti di rispettare anche delle norme di carattere fiscale per produrre la grappa, no? Diciamo che questo è un po' un'idea che torna nella storia, ecco, e che dimostra al giorno d'oggi, a livello proprio di ricordi, di quel che è la passione per il prodotto. Ovviamente la grappa in casa non si può fare, non si può fare per motivi fiscali in primis, quindi accise e tasse, ma anche e soprattutto per un discorso di tipo qualitativo, perché un prodotto di qualità deve essere controllato, e dicevo prima, il laboratorio doganale certifica le caratteristiche del prodotto e quindi dà al consumatore la piena sicurezza. Ecco, quindi uno la può fare a suo rischio e pericolo, poi se la beve in proprio e quindi se farla e non dirlo a nessuno. Però voi fate a livello industriale, alla luce del sole, trasparente, quanti stabilimenti avete come azienda Bonollo? Noi abbiamo due stabilimenti, una distilleria dove, dicevo, abbiamo sviluppato il sistema unico Bonollo, e poi abbiamo uno stabilimento di confezionamento dove appunto vestiamo quella che è la grappa che otteniamo. Quante bottiglie fate all'anno? Complessivamente siamo nell'ordine di un equivalente di 4 milioni di bottiglie. Dopo, all'interno di questo c'è la punta di diamante, che è la nostra collezione off. Ecco, tutto in Italia o c'è anche una quota di esportazione? L'esportazione sui mercati internazionali per la nostra azienda si aggira intorno a un 30%. Magari sono gli italiani all'estero che comprano la grappa. Quelli italiana. Sono i primi ambasciatori del nostro prodotto. Ecco, in questa prospettiva c'è un andamento stagionale della vendita di grappe? Va più d'inverno che d'estate? Va più al nord che al sud? Quali sono le caratteristiche di questo mercato? Diciamo che siamo riusciti a rompere tutti gli schemi, quelli che erano l'idea del concetto della grappa come prodotto stagionale è ormai sostanzialmente tramontata, anche se comunque esiste, ovviamente bisogna riconoscere una valenza stagionale, ma l'approccio del prodotto non è più nella direzione di un bere, un degustare per cercare un prodotto alcolico in sé, ma va nella direzione di concedersi un piacere edonistico, e quindi questo, grazie poi anche eventualmente nel periodo estivo alla refrigerazione, significa potersi godere il goccetto di grappa in compagnia in qualsiasi momento dell'anno, e questo è molto importante. Anche la differenza tra giovani e anziani in questo anche senso? La differenza, diciamo che con la nostra grappa off Amarone Barrique siamo proprio contenti di aver rotto completamente gli schemi, perché abbiamo conquistato il consumatore moderno, nazionale e internazionale, il pubblico giovane, e anche grossi risultati sul pubblico femminile, che dimostra di apprezzare le caratteristiche del prodotto. Poi ci si dimostra anche attraverso delle verifiche, di test sensoriali, che molto spesso il giudizio femminile risulta molto più acuto nelle valutare il prodotto. È una sensibilità più fine anche sotto, sì, questo aspetto. Voi avete fatto, mi sembra, come Istituto della Grappa, un'iniziativa Grapperie Aperte nella domenica all'inizio dell'autunno, in cui c'è la possibilità di visitare questi stabilimenti. Qual è il bilancio che si può fare di questa iniziativa? Sicuramente un bilancio positivo, perché anche quest'anno, ed è recente perché è avvenuto di recente, la risposta è buona, nel senso che si continua ad esserci l'interesse da parte del consumatore nel scoprire il prodotto, nel cercare di capire quello che è il mondo, la storia, la passione, il fascino che c'è in distilleria, e quindi questa è un'opportunità per toccare con mano dalla vinaccia alla grappa e per degustare e riuscire a capire attraverso una guida quelle che sono le caratteristiche del prodotto e del fatto che ogni grappa è diversa dall'altra, e questo è un grosso vantaggio e un punto di forza della nostra acquavite di bandiera. Ecco, questa prospettiva proprio da imprenditore, voi appunto se avete un'impresa, siete un imprenditore, avete i dipendenti, avete delle relazioni con l'esterno, quali sono i problemi che affronta un imprenditore in particolare in questo settore, ma direi in generale? Ecco, non mi dica il fisco, che quello lo sappiamo e quello fa già parte delle lamentele normali, quella che si pagano troppe tasse in Italia, ormai lo diamo per acquisito, ma al di là di questo, quali sono i problemi che dovete affrontare e magari quelli che avete risolto con maggiore successo? Beh, l'imprenditore deve avere come riferimento sempre il suo consumatore, perché il riferimento deve stare sempre al prodotto in relazione al consumatore, e da questo punto di vista noi abbiamo concentrato l'attenzione nel dare, oltre che la caratteristica del prodotto, anche un servizio, e da questo punto di vista è molto interessante riscontrare che il consumatore è sempre più attento, e quindi investimenti in questa direzione dal punto di vista imprenditoriale sono quelli che danno maggiori opportunità di sviluppo, di radicamento di marchio e possibilità di far parlare ed espandersi. Poi dal punto di vista imprenditoriale è chiaro che la sfida più grossa viene a guardare i mercati internazionali, perché è lì che c'è molto ancora da fare per la grappa. Ecco, voi siete un'azienda familiare dalla quarta generazione, andate d'accordo? Casomai un bicchierino di grappa attorno a un tavolo aiuta ad andare d'accordo? Quello aiuta molto. No, a parte gli scherzi, diciamo che per noi quello che era il concetto dell'azienda familiare, nel senso dell'unione fa la forza, siamo ancora in condizione di poterlo dire, nel senso che una volta che sono state disciplinate le aree in cui ognuno di quelli della generazione nostra hanno voluto inserirsi, e in funzione delle proprie attitudini, delle proprie capacità, delle proprie competenze, e quindi definito l'ambito di responsabilità di ciascuno nella propria area, si crea un team che ha una forza che permette veramente di aver risultati e di superare molte di quelle problematiche di cui diceva prima. Certo, il passaggio generazionale è sempre un po' complicato, essere la quarta generazione di un'azienda centenaria è sicuramente un dato importante, quindi avanti di questo passo. Non pensate di fare dei passi forse un po' più lunghi della gamba, che so, andare in borsa o cose di questo tipo? Le dimensioni sono ancora quelle che consentono un'azienda familiare di restare un'azienda familiare? Beh, noi crediamo molto a questo, perché ci sono dei punti di forza che vengono nel fatto che comunque abbiamo alle spalle una responsabilità che ci lega molto e ci mantiene uniti, del fatto che ci sono state generazioni, nel caso nostro, che di vite spese in distilleria, focalizzate sul prodotto, sacrifici, passione, e quindi è un orgoglio da un certo punto di vista e un dovere continuare in questa direzione, ovviamente con un'ottica moderna, con flessibilità e con un'apertura ai mercati internazionali. Anche perché il nome è molto legato al prodotto. Se metteste a produrre, che so, biciclette o frullatori, probabilmente non avreste un nome altrettanto di richiamo. Quindi un nome che è legato al prodotto, questo vuol dire anche difendere una tradizione familiare, difendere anche una produzione italiana. Sotto questa prospettiva, il Made in Italy, voi esportate, mi dicevo, il 30%, è ancora un punto di forza. Sì. Questo senza dubbio. Il, diciamo che la grappa si inserisce nel nostro caso all'interno della tradizione della famiglia e comunque inserito in un contesto nazionale che nonostante tutto ha ancora un elevato livello di attrattiva, la parte soprattutto culturale, la parte artistica, tutti questi elementi sono poi indirettamente legati a quel che è il prodotto e la storia di quelle che sono state le regole, le sfide produttive, le volontà di creare un prodotto sempre migliore e in continua evoluzione. Certo, ecco, non solo grappa, l'Italia ha tanti prodotti, ha tanti elementi, tante cose distintive che la fanno essere qualcosa di diverso. Volevo proprio concludere con queste osservazioni. Possiamo avere fiducia nel futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, di questa economia che ha tanti problemi, ma anche e soprattutto tante risorse, tante opportunità. Direi proprio di sì, perché è un, secondo me, un imperativo dal punto di vista imprenditoriale riuscire a cercare di proporre cose nuove in linea con la tradizione, ma diverse rispetto a quello che è presente normalmente, e anche rompere gli stereotipi è altrettanto importante per riuscire ad aver successo. Grazie, quindi complimenti, auguri per la crescita pur limitata, pur restando nell'ambito familiare, un esempio di azienda familiare, Elvio Bonollo, che è stato con noi questa sera, rappresentante della quarta generazione di una industria che fa grappa, un prodotto tipico italiano, con grande fiducia nel presente ma anche nel futuro. Grazie Elvio Bonollo. A lei, grazie. Grazie. Buonasera. A quanti ci ascoltano, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora e buona domenica.